prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. La Caritas è fatta di persone, di storie, di iniziative, di progetti, insomma ne parliamo spesso. Oggi parliamo con una persona che per 14 anni ha svolto il suo servizio al centro di ascolto diocesano di Padova, Suor Cristina delle Francescane Missionarie di Gesù Bambino. Ben trovata, un saluto Suor Cristina. Buongiorno a tutti voi. Dunque, un centro di ascolto, spesso è un'espressione che ci è tornata fuori nei nostri appuntamenti settimanali, appunto per la sua esperienza vorrei che ci spiegasse che cos'è un centro di ascolto, quali sono le sue finalità, in particolare poi quello di Padova. Sì, noi siamo il centro di ascolto della Caritas diocesana, abbiamo sede nei locali della Caritas diocesana, ma io con una immagine direi che è una porta aperta sulla città, ossia un luogo dove chi per i più diversi motivi si trova a vivere un momento di disagio, un momento di difficoltà o semplicemente desidera condividere il suo pezzetto di vita con qualcuno che è disponibile ad ascoltare può venire e chiedere. Questa è un po' l'essenza, proprio in sintesi di quello che è un centro di ascolto. E molto spesso a noi si rivolgono delle persone che hanno bisogni, a volte, o meglio, spesso di natura economica, e per quello che sono le nostre risorse, le nostre possibilità, tentiamo di valutare l'entità del problema e capire cosa è possibile fare anche in rete con le altre istituzioni che sono presenti sul territorio, sia di natura pubblica come di natura privata. Ecco, immagino che soprattutto negli ultimi anni, da quando è scoppiata la grande crisi economica, il centro di ascolto abbia avuto un afflusso maggiore. Certo. Ecco, e oltre alle richieste economiche ci sono anche richieste di altro tipo, cioè magari semplicemente di essere ascoltati, cioè che qualcuno abbia a cuore semplicemente la presenza. Sì, un po' diciamo che la dimensione dell'ascolto è trasversale un po' a tutta la nostra attività. Molto spesso chi arriva sente molto urgente il bisogno che lo porta fin qui, poi chiaramente nell'incontro si apre uno spazio anche di relazione e quindi uno spazio in cui le persone possono trovare anche un luogo dove dirsi, dove raccontarsi e quindi anche dove riprendere un po' forza nel cammino che a volte non è proprio semplice. Certo, persone dicevamo, ovviamente sarà difficile fare un profilo, però anche in questi 14 anni che tipo di persone si rivolgono a voi? Cioè sono più donne, sono più stranieri, sono giovani, sono anziani? Guardi, nella maggior parte si tratta di cittadini stranieri che hanno anche delle reti a livello sociale, a livello familiare molto più esili rispetto talvolta a cittadini che risiedono in città da molto, hanno comunque dei riferimenti più stabili. Per quanto riguarda la distinzione uomini-donne, credo adesso non ho i numeri sotto mano, però più o meno c'è una equipresenza, insomma, sia di uomini come di donne. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. 14 anni al centro di ascolto, quando a suo tempo appunto le fu chiesto di prendersi questo servizio, questo incarico, come si ricorda di averlo accolto? Guardi, io un po' di, come dire, come studi avevo frequentato la scuola per assistenti sociali, per cui era già un po' un approdo in qualche modo desiderato rispetto anche a un'attività che mi era cara e l'ho accettato molto volentieri e anche adesso dopo 14 anni continuerei molto volentieri, insomma, in questo tipo di attività. In cosa ritiene di essere cresciuta, di aver ricevuto dal centro di ascolto in questi 14 anni? Ho ricevuto molto, moltissimo. E penso che il contributo l'abbiano. Sì, quanto ho ricevuto sono un po' tutti i tanti incontri che in questi anni si sono succeduti, sia con le persone che si sono rivolte a noi per chiedere aiuto e sia con chi ha collaborato con me in questo tempo. Ecco, ci sono persone appunto che continueranno questo servizio, persone nuove che entreranno. Il suo augurio appunto per queste persone? Ma augurerei a ciascuno proprio di vivere in pienezza la dimensione dell'incontro, che è una dimensione che veramente apre spalanche, insomma, degli squarci di umanità sempre nuovi e quindi sempre arricchenti, stimolanti e umanamente veramente importanti. Si chiude dunque questa pagina di 14 anni, adesso la sua congregazione le chiede un altro servizio. Sì, collaborerò un po' nella gestione di alcune realtà più legate alla nostra famiglia religiosa, però io spero di poter continuare anche un'attività simile a quella che ho vissuto a Padova. Ecco, dove sarà? A Milano. A Milano, e quindi una realtà anche completamente diversa, una metropoli vera e propria, in cui magari certe realtà che a Padova si vedono lì magari possono essere amplificate. Che cosa conosce di quella comunità? È ancora abbastanza poco, anche se sono un po' le mie origini, per cui qualcosina conosco, ma sono conoscenze ormai di più di 20 anni fa, devo un po' rinfrescare. Certo. Un pensiero anche alle tante persone che poi ruotano intorno alla Caritas. Anche la Caritas in questi anni appunto è cambiata, è cresciuta, si è evoluta, tante persone, penso solo ai direttori insomma che si sono succeduti in questi anni, immagino che anche con loro, con tutti gli operatori siano instaurate relazioni anche di amicizia. Sì, questo credo sia il valore aggiunto di una realtà così, in cui c'è sicuramente una dimensione di servizio, di lavoro, ma c'è anche spazio per molta amicizia, molta fiducia, molta collaborazione. La mia esperienza è stata questa. Grazie allora, Suor Cristina, buon cammino. Grazie a voi, altrettanto. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.